Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera e ben sintonizzate sul martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. Quella che ascolterete è la nostra 299esima trasmissione e oggi qui in studio siamo Caterina che vi sta parlando e con me c'è Stefania, no, ho sbagliato nome perché avevo scritto Rosina, in realtà c'è Stefania, ma non siamo da sole perché abbiamo due gradite ospiti, una delle quali è già qui in studio con noi e l'altra la raggiungeremo telefonicamente tra un po'. Insieme proveremo ad affrontare un tema che quasi con impellenza ci sta chiedendo da un po' di essere quantomeno discusso e affrontato. Per spiegarvi di cosa si tratta, vi racconteremo delle situazioni che abbiamo attraversato, nelle quali ogni volta e sempre più spesso ci siamo sentite quasi obbligate a prendere la decisione di affrontare l'argomento di stasera. Dunque, qualche tempo fa abbiamo fatto come CLR una iniziativa sulla poesia delle donne e con nostra sorpresa fu molto partecipata e seguita. In quel contesto alcune donne ci vennero vicino ringraziandoci per l'iniziativa e confidandoci che anche loro scrivevano poesie. A questa iniziativa ne è seguita una seconda ed una terza. Sempre accompagnate da un grande ascolto. Quindi abbiamo lasciato a disposizione il microfono e pensavamo che sarebbe rimasto appoggiato sul tavolo per molto tempo. Invece il tempo si è rivelato troppo poco per la grande quantità di donne che con generosità e voglia di mettersi in gioco vennero a leggere le loro poesie. Successivamente abbiamo incontrato Sara Zanghi per presentare il suo ultimo libro, Non tutto è perduto, 8 storie di donne, uscito nel 2012. Grazie a quell'incontro e a quelli che hanno preceduto la presentazione abbiamo avuto modo di apprezzare e conoscere anche il suo lavoro di grande poeta. Insomma, avete capito che stasera parleremo di poesia. L'ospite di oggi è Sabina e al telefono tra poco ci raggiungerà Monica. Bene, ora ascoltiamo un po' di musica e dal tipo di canzone intuirete sicuramente anche da dove viene Sabina. Si tratta di Mi voto e mi rivoto dalla splendida voce di Rosa Balistreri. Mi voto e mi senza suono. Buonasera. Iniziamo con la lettura della presentazione di Sabina dal libro di poesie in siciliano. Sabina La Manna nasce in Sicilia in una fredda mattinata di novembre del 1957, tra il mare calabro e quello siciliano, sul mare, per l'esattezza sulla barca che portava la sua mamma verso Vibo Valentia, dove il padre lavorava ai pozzi di petrolio. Da allora non si è mai più fermata. Costretta da una vita familiare tempestosa, all'età di 13 anni iniziano le prime fughe e le prime poesie. Scrivere non diventa più una casualità, ma un carro con cui fuggire ogni volta che voleva. Approda adolescente a Palermo, nel pieno degli anni di piombo, con il fermento delle lotte studentesche, dei vagiti del femminismo che la segneranno per sempre. Troppo lungo elencare i suoi pellegrinaggi, era sempre in viaggio tra Italia e Germania, sempre con questa grande attenzione al mondo delle donne e della politica di quel tempo. Due immense perdite e le minacce subite da sindacalista la portano a lasciare la Sicilia e trasferirsi a Roma. Si dedica all'emergenza come lavoro, un aspetto che la influenza tuttora, il fascino che unisce la vita, la morte e l'amore, spesso presenti nelle sue poesie. Allora, questa era la presentazione su un libro che hai pubblicato alcune tue poesie, delle quali parleremo più avanti, perché la seconda nostra ospite ti intervisterà proprio su quella particolarità. Intanto buonasera, hai ragione, sono una capra, è vero che ormai sei di casa per me, per cui grazie. Figurati, grazie a te di essere venuta. Allora, io so, conoscendoti da tanti anni, che la tua vita è stata attraversata da una serie infinita di relazioni politiche con le quali hai interagito, partecipando e facendo parte di molte realtà lesbiche e femministe nella tua Sicilia. A me piacerebbe che tu ci raccontassi di quali gruppi si trattava, gruppi che io insomma definirei storici, e di quanto questi gruppi hanno significato per te. Assolutamente, detto bene, storici sicuramente, ma non posso iniziare senza percorrere quel percorso che mi ha fatto incontrare donne e che... Dovresti parlare più vicino al microfono. Ah, perfetto. Okay. Dicevo, questo percorso di conoscenza del mondo femminile, femminista e lesbico, in realtà è iniziato con un evento che aveva ben poco di femminista e di lesbico, perché tutto è iniziato nella città di Palermo durante i famosi anni di piombo. Stiamo parlando di una città in cui vigevano personaggi che realmente nella nostra conoscenza sono importanti: lo Stagno, Genovese, la Chicca Roveri. Voglio dire, era un momento molto particolare di grande crescita politica e di grande soprattutto fermento. E per un evento abbastanza doloroso, nel senso che comunque per motivi che non sto qui a spiegare, durante la manifestazione sono stata picchiata violentemente, e questo episodio, che mi ha provocato in quel periodo danni fisici molto gravi, e vennero affrontati, in realtà devo dire che devo la vita al gruppo collettivo della facoltà di lettere di Palermo, che si prese cura di me. Nel senso che proprio mi curarono, mi assistettero per quasi un domanda mese. Stupida e ovvia: chi ti ha picchiato? La polizia, durante la manifestazione della vi ricorderete del famoso, quello che io chiamiamo tutti noi, omicidio del gruppo Bader-Meinhof. In quell'occasione venni presa dall'accelere e letteralmente massacrata, proprio trauma cranico, versamento della cella subita cerebrale, sfondamento dell'utero a calci. Mamma cioè mia. Un episodio veramente terrificante. E ripeto, queste donne si presero cura per un mese, facendomi assistere dai migliori specialisti. Quando mi sono ripresa da questo evento, decisi di tornare a Catania, che era la mia città da cui ero provenuta. A Catania inizia questo percorso incredibile perché tramite alcune donne vengo invitata ad una riunione dell'UDI e lì avviene quello che io definisco veramente l'evento che stravolgerà, che cambierà la vita di Sabina, perché lì conosco Agata e Sara. Agata e Sara sono delle donne che allora in quel momento erano lesbiche dichiarate all'interno di questo movimento appunto femminista che c'era. Chiaramente è logico che nell'appartenenza io mi leggo moltissimo a queste due presenze, che però dureranno poco, non solo a Catania, credo nel territorio nazionale, all'UDI, perché chiaramente i conflitti, no, rispetto all'appartenenza lesbica e ai contenuti femministi che erano completamente lontani mille miglia, provocheranno questa grossa rottura. Agata fa una cosa straordinaria, uscendo come una, come una furia, staccandosi da questo collettivo, formerà un suo gruppo. Ed ecco che nascono le papesse. No, io sorrido perché. No, sì, cioè, lo so che tu hai, hai veramente dentro la tua testa e nel tuo cuore la nascita di tutto questo. Tu l'hai vissuto sin dall'inizio, hai vissuto la storia anche delle donne di siciliane e i loro percorsi. Le papesse sono un gruppo sconvolgente, ma non solo come produzione che avevano, ma proprio perché immaginate quella terra praticamente che si permette di fare dei campi donna lesbici. È stata una cosa non rivoluzionaria, di più. È stata una rottura incredibile e devo dire una rottura che è stata seguita da donne non solo in Italia ma in tutta Europa. Io vorrei sottolineare, se mi permetti, una cosa che io credo sia di fondamentale importanza, cioè il gruppo di cui tu parlavi, le papesse, e questi campi, volevo ricordare e sottolineare che hanno dato vita al primo campo lesbico in Italia. Esattamente. Porca miseria. Esattamente. Il primo campo lesbico è nato in Sicilia a cura delle papesse. È nato in Sicilia, si chiamava Adelphia. Adelphia è stata qualcosa di incredibile. Adelphia è stato un campo preso dal gruppo Valdese, che prima era un territorio esclusivamente appunto femminista, che lo ha con grande tranquillità dato appunto alle donne delle papesse, e sono venute donne da tutta Italia, donne dall'Europa, mi ricordo Germania, Francia, veramente è stata un'invasione, ma non solo. Adelphi è stato un propulsore in realtà poi della produzione letteraria delle donne, degli incontri, dell'autoanalisi, dell'autocoscienza. Anche questa è una cosa che mi coinvolge personalmente, anche dei tribunali etici, perché voglio dire, si incominciava a parlare anche dell'etica nei rapporti delle donne. Certo. Non doveva più niente essere al caso. No, assolutamente, certo. No. Veniva viscerato tutto, chiaramente. Certo, poi da quel primo campo ne sono susseguiti altri. Tantissimi. Ai quali tu hai sempre partecipato, sì, io pure di straforo, cioè io venivo, facevo la terza trasportata, come si dice, godevo della cosa, ma in quanto ad organizzazione ero molto lontana all'epoca, però diciamo che l'ambiente che si... Diciamo che gli altri campi, no? Tipo il Minareto, Eraclea Minoa, man mano chiaramente si evolvevano sempre di più, nel senso che la connotazione poi politica di quegli incontri diventava sempre più forte. Certo, io a partire da questo bagaglio che tu hai alle spalle e che hai comunque contribuito a far nascere e crescere, ti volevo fare una seconda domanda e ti volevo chiedere quanto tutto questo ha contato nell'alimentare la tua creatività, ma non soltanto una creatività astratta, una creatività specifica, proprio legata al tuo essere lesbica e al tuo venir fuori. Questa è stata la mia rivoluzione. Quello che appunto chiamo il salto dal burrone, un burrone di rabbia. Giustamente tu mi avevi, quando ne parlavamo, ho sottolineato: ma perché rabbia, Sabina? Ma perché in realtà il mio percorso è un percorso tortuoso, fatto di grande rabbia e rancori. Ho una storia di un patriarcato estremamente violento, mm-hmm. che sicuramente mi ha segnato come personaggio, come donna. Aver incontrato donne di questa portata sicuramente hanno scardinato dentro di me delle cose, è ovvio. Tutto questo ha permesso alla Sabina di oggi di essere amata, alla mm-hmm. Sabina di oggi di uscire fuori. Non c'è dubbio che questa è stata una rivoluzione per me, ed è stata marchiante, perché non si può tornare indietro da questa cosa. È impossibile non chiedere nelle proprie relazioni, nei propri incontri e nelle proprie viscerazioni qualcosa. Allora il mio modo per scappare da bambina, no, da tutto questo violenza che effettivamente mi creava anche una chiusura in realtà, no? Come certo. potevo pensare, certo. era scrivere. Io ho sempre scritto, sono da piccola, 8-9 anni, io avevo i foglietti e scrivevo. La prima prosa realmente che io ricordo come poesia, che dedicai allo stadio di Catania, avevo 11 anni. Dopodiché non ho mai smesso, assolutamente mai smesso. Quella era la mia fuga. Oggi non la considero una fuga, perché non lo è più come fuga. Mm-hmm. Oggi è veramente una mia modalità espressiva. La trovo naturale, mi viene naturale seguire questa che per me è il mio modo di dire le cose, perché le sento in questo modo. È una forma più facile. Mm-hmm. Certo, nelle relazioni personali sicuramente mi ha in qualche modo un po' impedito, perché chi poi si abitua a una forma, no, personale come questa, di eviscerare, no, la propria emozionalità, la nega poi in altri spazi, no? Però mi ha anche ammorbidito, è una forma che mi ha addolcito, è una forma che mi ha fatto riprendere delle cose che non sapevo neanche che erano dentro di me. E su questo devo ringraziare le donne, cioè le donne che mi hanno disastrato, spezzettato, scardinato un'immagine, preso, cioè. Tagliuzzato, messa con le spalle al muro, no? Cioè mi hanno costretta veramente con amore, soprattutto con l'amore, a dovermi vedere, soprattutto con l'amore. Senti, visto che mi hai incuriosito, e credo che anche chi ci sta ascoltando si sarà incuriosita, io direi di leggere qualche poesia. Che dici? Almeno una, così ci rendiamo conto. Assolutamente. Vai, scegli tu quella che vuoi leggere. Adesso che penso all'amore come tuffo, dove ho negato il fiato e chiuso il mio sguardo, dove le dita oltraggiavano confini offendendo la fantasia, bevendo a piene mani l'urlo e di tremori di sopiti vulcani, dove la prepotenza di esistere ci trasformava in padrone di tutto. Adesso che pensa all'amore, accecata dai ricordi, assetata dalla sua essenza, adesso mi accorgo di aver amato. Un'altra, leggine un'altra. Grazie. Questa è proprio, questa l'ho intitolata Donna perché mi ha proprio fatto sentire proprio come identità donna. Amare te mi ha scaraventato nel cuore della terra, lì dove non entra aria e luce, dove il fuoco nutre e scalda e distrugge e fa tremare, lì dove seppellita dagli anfratti del tuo corpo ho smarrito strada, casa e ordine, desiderando solamente restare così. Bella, cioè, vabbè, passiamo alle domande, sennò qui continuiamo a fare poesie. Allora, nell'incontro che abbiamo avuto, fatto per prepararci a questa trasmissione, ci hai raccontato che per te la poesia è quasi una costrizione a scrivere, no? Sostanzialmente ci hai detto che non riesci a farne a meno, perché lo scrivere ti rimanda una sorta di forza liberatrice, che è quello che poi stavi anche spiegando poco fa. Ma esatto. Ce lo vuoi spiegare un po' meglio questo concetto? Esattamente. Quando lo scrivere da bambina, per uscire fuori comunque da una situazione di grande dolore e paura anche, mm-hmm. perché voglio mettere anche questo sentimento con cui comunque sono cresciuta, paura e rabbia e voglia di crescere, voglia di diventare più grande prima del tempo per essere più forte. E la poesia chiaramente mi dava questo senso di libertà che non potevo avere diversamente, e però mi ha intristito, mi ha chiuso. Io non dimenticherò mai che le cose che facevo allora, le cose che leggevo, erano veramente pesanti per una bambina. Io ero appassionata di Leopardi, ero appassionata di Pavese, che comunque sono tutte delle figure molto tetre, molto pesanti, no? Luttuose proprio. Mentre invece le donne mi hanno insegnato ad essere, non dico solare perché io sono sempre comunque, come dici tu, questa bestiaccia, no? Che ogni tanto così si arriccia, no? A scudo, però io ho conosciuto la gioia, ho conosciuto la risata, ho conosciuto la voglia di tornare bambina, il non vergognarmi ad esserlo mentre volevo a tutti i costi essere più grande. Sicuramente per me lo scritto è una liberazione, è tuttora comunque una liberazione del provare il sentimento, visto che ho delle difficoltà ad esprimere quello che sono le mie dolcezze, che considero anche notevoli, anche se tu dici no. Vabbè, ma io sono spudoratamente di parte, come potrei dire. Con la poesia mi viene più facile, ecco. Sì, mi viene più facile, ecco. Assolutamente. A questo punto leggici un'altra poesia, così ci rendiamo conto meglio. Più di te io ho amato e toccato, e mi sono uccisa, succhiando le voci, cullandole nella paura, lasciandomi stupita da questa mia età troppo grande per me e invisibile per te. Più di te io sono stata amata, facendomi chiamare donna ad ogni tocco, ad ogni abbraccio, ad ogni addio. Questa poesia è quello che stavo dicendo poco fa, è la scoperta realtà di Sabina grazie alla conoscenza, ai percorsi, anche dei momenti di dolore, perché chiaramente quando delle donne ti scoprono delle cose dentro, sei lacerata, non sono state delle cose facili, no? Poi anche dentro le relazioni personali, voglio dire, quelle difficili, no? Tormentate, non è stato facile. Oggi ne ho una consapevolezza più grande, e non dico se tornassi indietro cosa sarei. Sarei la stessa Sabina, ma sicuramente alcune modalità non sarebbero mai più espresse come lo sono state. Mm-hmm. Ecco perché c'è questo cambiamento in realtà, no? Che non è poetica, è un cambiamento proprio dentro. Queste donne, la politica delle donne mi ha da prima affascinato, poi mi ha preso e poi è diventata mia finalmente. Certo, certo. Senti, io sto guardando sulla tua testa l'orologio della sala, dobbiamo purtroppo accelerare i tempi. Tu sai che io con te parlerei, cioè è una vita che parlo con te, diciamo. però siamo purtroppo legate a dei tempi radiofonici, e quindi passo a farti quest'ultima domanda, anzi più che una domanda è una richiesta, perché dicevo all'inizio che tu hai di recente pubblicato alcune poesie in dialetto siciliano che a mio modesto avviso sono lo specchio di ciò che sei, quindi sanguigna, impetuosa e passionale. Cosa ti rimanda e che significato ha per te la scrittura in dialetto? Lo scopriremo tra poco, anche grazie all'aiuto di Monica, che chiameremo durante l'intervallo musicale che manderemo dopo questa richiesta che ti sto facendo. Però io ti chiedo la cortesia di leggermene una che a me piace in modo particolare, e te l'ho detto prima di entrare qui in studio, qual è? Tu l'hai trovata, sei d'accordo? E io ti ringrazio a prescindere. Dopo questa tua poesia manderemo un'altra siciliana doc, manderemo un brano musicale di Carmen Consoli e dal titolo A Finestra. Vai. Sì. U fazzo chiancere questo dolore, pinamucciallo come una criminale. Lo faccio nascere, lo faccio parrare, ci rugno l'aria e la libertà. Un pozzo tenere, lei fa rivivere. Fino a quando sento, fino a quando mi tira cauci e tormento, io sto dolore, l'hai a contare. Più potere, un giorno, cosa più quando, rapire la porta e lasciarlo ire. sembra la finestra, è vero gente che ha furri appasciata, gente bella l'aria, allegra, mogiosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata a bocca scetta, tu li ho voglia di qualcosa, un basso a bocca, un lemon soda, e tu già rispondi Giuse quando ti chiamavi Giuseppina, eri le capabrioscia che granita, tu rituna fatto usciata e ora che sei grosso imprenditore, t'anzignara classe in doparare. Sogno sembra alla finestra, è vero gente spacinata, sto agata nei banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dici ciao con Nataleata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si vasa, gente casa pasce in genna cigna, si strapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa fa lì canna sarda, ma ci fa trovare a tavola con sada cucumana. Che già vedi di dare aria una vita a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venne a travagliare quando io un vecchio indispettito avevo che già ero di gioio, ci dico ma scusati che sta la mia casa e stai o ne me pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, nantoni case trasi dentro l'ossa, peccatori rinunciati e ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario branchia detto ralleone. Pace coppola, balbette e mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare comunione. Chi sa vedi di dare aria una vita a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venire un poco a mare, con mio vecchio dito così anche mi pare di scritto io. Casa a panzuttare, sogno sembra alla finestra, è vero aranni civiltà che sta donne turche pre-cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di pittizza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, so trovamo semi buono di chi andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cangiare. Chi c'ha vedi di Italia di una vita. Mi dispiace tantissimo sfumare Carmen Consoli. Allora io intanto volevo sapere se Monica ci sta. Ci sono, eccomi. Ci sei Monica? Sì, sì. Ciao, ok, perfetto. Ciao Monica, ciao. Ciao, ciao, buonasera a tutte. Allora Monica, noi abbiamo Pronto? Qui... Sì, sì, mi senti adesso? Mi sono infilata la cuffia. Sì, okay. Se riusciste a far salire un po' il volume sarebbe meglio. Se sapessi come fare lo farei volentieri. Va bene così, dai. Ok. Allora, noi abbiamo parlato un po' con Sabina mettendo a fuoco sì, quella che... Ah, ok, perfetto. Allora ti cedo il microfono così puoi proseguire tu, d'accordo? Grazie di aver partecipato intanto. Grazie a voi, grazie dell'invito. Io in realtà sono diciamo un po' in imbarazzo, nel senso che non sono una critica poetica, sono una appassionata lettrice di poesie, ma non una critica, quindi il dialogo che farei con Sabina è su alcune delle sue poesie che mi hanno particolarmente colpita, che sono quelle in dialetto siciliano. Io non so se chi ha ascoltato fino adesso la trasmissione ha avuto modo di percepire insomma la forza della scrittura in dialetto nell'ultimo brano che Sabina ha letto. Io leggendo Sabina le tue poesie ho notato una forza, che però è anche una fatica della scrittura, che rende però assolutamente intenso il ritmo, intenso anche la ricerca delle parole che tu utilizzi, come se insomma tu ingaggiassi in realtà una sorta di corpo a corpo con la lingua nel tuo scrivere in dialetto. A questo proposito mi piacerebbe molto, perché secondo me insomma per far capire cosa intendo, forse è bene ritornare un po' sulle tue poesie. Mi piacerebbe che tu leggessi alle censure, che spero tu abbia portata, sì, di mano, certo. Magari anche leggendo prima la versione in dialetto e poi, la tua versione italiana, diciamo, perché così almeno, sì, si capisce anche, certo, anche il tema. E poi su questa poesia in modo particolare ti farei una domanda. Certo, io ti ringraziamo. Quello che volevo solo fare una riflessione su quello che stavi dicendo, perché tu, e ti ringrazio veramente comunque dell'esposizione che stai dando, che mi confonde. Quella che tu chiami forza, io la sento a tratti qualche volta rabbiosa, perché lo considero un irrisolto ancora. Comunque, ti accontento immediatamente con grande piacere, per cui ti canto questo, ti canto. Esagerata, amore. Vabbè, è una lirica. Il siciliano è sempre un canto comunque. Vai. Ok. A me voci, na fermi, na astuti, un neato. Si la blocchi idda s'ammuccia per li puttusa di un'amicizia. E quando ammucciata ne esci fora, c'ata più forti, più dura, più auta di lito mura. La mia voce non la fermi, non la spegni, non è tua. Se la blocchi, lei si nasconde nei piccoli fori di un'amicizia. E quando nascosta esce fuori, lei grida più forte, ancora più dura, più alta delle tue mura. Ecco, io penso che in un certo senso, anche se poi tu mi hai raccontato quando ci siamo scritte via mail, sì, che ha una diciamo una genesi particolare questa poesia che poi ti chiederei di raccontare, però per me questa poesia in modo molto significativo racconta di questa tua lotta contro il silenzio, di questa fatica nel tirar fuori le parole, però che poi nel momento in cui arrivano fuori in un certo senso rompono degli schemi, rompono dei muri, no? Dei muri di imposizione del silenzio. È così, tant'è vero che quando io l'ho scritta è uscita fuori immediatamente, proprio sono stata bloccata ingiustamente nel profilo di Face, perché veniva accusata proprio per aver pubblicato delle mie poesie di essere tra virgolette oscena nell'esposizione dell'amore, no? Voi vedete che non c'è proprio niente di osceno, cioè, per cui ero talmente arrabbiata, offesa da questa cosa, da questo insulto, da questo muro, da questo blocco, da questa catena, che ho scritto questa cosa. Però tu, mentre mi parlavi poco fa, io proprio come un flash sono tornato indietro di molti più anni, e in realtà forse hai ragione, tu hai una lettura incredibile, guarda, veramente complimenti, perché io sono tornata molto più indietro, io sono tornata bambina. Forse queste erano delle parole sepolte, forse più sepolte di quanto credessi. Senti, io volevo approfondire un po' questa questione del rapporto con la parola. Prima però, siccome facciamo radio e secondo me chi ascolta ha piacere di alleggerire un po' il discorso con le letture. A me piacerebbe che tu leggessi un'altra delle tue poesie, che è Lo vuoi raccontato picchi non ti scordo. Stai in buona compagnia, Monica, tranquilla. spero che riuscirai a perdonarmi. Assolutamente. Perché sì. Appunto anche qui in realtà mi sembra che torni di nuovo la necessità della parola come se fosse un'impellenza per, in questo caso quasi per sconfiggere il senso di morte, no? Adesso sentiremo nella tua lettura. Di nuovo ti chiederei se è possibile di leggerla sia in siciliano che in italiano. Senz'altro. Lo vuoi raccontato perché non ti scordo? Perché mi lassasti l'inferno e lo chianto, mi lassasti la sete che non aveva acqua, la fame che non aveva cibo, mi impicasti alla vucca che non sapevi parlare, vasare, volere, ti portasti lo vizio di l'amare e coi dolore vivere, ti lo stai raccontando perché stai morendo. Lo hai raccontato perché non ti dimentico, perché mi hai lasciato nell'inferno e nel pianto. Mi hai lasciato la sete che non ha acqua, una fame che non ha cibo. Mi hai incollato la bocca che non sa più parlare, baciare, volere. Ti sei portato il vizio dell'amore e con lui il mio vivere. Te lo sto raccontando perché sto morendo. Ecco, io di nuovo appunto qui torna molto la parola come antidoto al dolore, direi di più al dolore. Una cosa che mi interessa molto leggendo questa poesia viene fuori abbastanza, in modo abbastanza forte, c'è un ritmo nella scrittura in siciliano che poi nella tua resa in italiano si perde un po', e che dà proprio un'idea di un rapporto così profondo con il tuo dialetto che quasi insomma sembrano veramente due mondi differenti, certo. Così è viscerale in quel modo, veramente sì, infatti, ma è perché lo sento così, cioè non è un problema lessico, è proprio mi esce fuori, cioè, diciamo che quando tu pensi in siciliano. Quando penso, quando leggo, è viscerale. E comunque sono d'accordo con quello che dici, però più che morta, ecco, io sento molto il dolore, e siccome l'ho tenuto sepolto, l'averlo fatto uscire adesso da adulta, attraverso comunque questa modalità espressiva che ho sempre usato sin da bambina, oggi mi libera questa cosa, capito? Mi viene più facile. È un po' in un certo senso anche un ritorno, anche se conflittuale, problematico, un ritorno anche positivo verso la tua terra, mi sembra. Una sua ripresa, da questo punto di vista, per sottolineare proprio questa cosa del rapporto con la tua terra, perché secondo me è fondamentale nella tua poesia, anche se non so quante volte tu lo hai poi messo in versi, però insomma ce n'è una pochissima di poesie che tu mi hai inviato, che è proprio Sicilia, che mi piacerebbe tu leggessi, perché da qui emerge in modo molto evidente il tuo rapporto, certo, rabbioso ma anche di amore, no? Secondo me è il conflitto, possiamo leggere Sicilia? Certo, secondo me comunque è il conflitto che sentiamo tutti noi siciliani, no? Questo rapporto di amore, di odio e amore verso questa terra che sicuramente comunque ci ha dato delle sofferenze per alcune modalità che voglio dire sono anche logiche. Ti chiancio e arresto arraggiata di tia, uffisa e affamata, tu che mi piegasti fino all'assariti, luttando contro i tuoi uomini, il tuo passato, il tuo inferno. Ma resta tu uduri, l'uduri di tia, fatto di mele e di mare, impiccato nome sangue, mi c'è bagno lo cuore. Ti piango e resto arrabbiata di te, offesa e affamata, tu che mi hai piegato fino a doverti lasciare, lottando contro i tuoi uomini, il tuo passato, il tuo inferno. Mi resta questo odore, l'odore di te, fatto di miele di mare, incollato nel mio sangue, mi ci bagno il cuore. Mamma mia, vabbè. Volevo chiederti se puoi entrare un po' più nel merito del rapporto con la scrittura quando scrivi nelle due lingue, perché insomma veramente a volte sembra un'altra lingua il siciliano, non sembra un dialetto. Se puoi entrare anche nello stato d'animo, no? Quando è che scegli, per esempio mi incuriosisce capire quando scegli una piuttosto che l'altra. Guarda, è una domanda veramente difficile da rispondere. Io non scelgo. Cioè, io improvvisamente, se devo scrivere una cosa, in quel momento viene in quel modo. Non c'è una modalità di scelta. Io tutte le volte che ho scritto in siciliano, per esempio, ecco, ti dico una cosa importantissima. Io è da poco che scrivo in siciliano, saranno pochissimi anni. Io prima non avevo mai scritto nella mia lingua. Evidentemente si vede che mi sono impadronita in qualche modo, non solo della mia terra, ma mi sono anche perdonata alcune cose, ed ho perdonato la mia terra alcune cose, per cui questa mia modalità è venuta fuori così spontaneamente. Però ti posso assicurare che non c'è una scelta in questa cosa. Mi è capitato qualche volta, ma giusto per curiosità, di trasformare, per esempio, una poesia che era stata scritta in italiano, trasformarla in siciliano, però non ho mai cambiato l'origine. È stata una prova, ma non ho mai cambiato l'origine, giusto per vedere che tipo di frasi potevano venire fuori, ecco. Ma quello che è scritto, una tua così... tue poesie? Sì, sono mie, sì. E che cosa veniva fuori? Veniva fuori questo, che sicuramente ho più facilità quando... Posso usare il termine che adoro, che considero veramente universale. Quando mi sento appassionata, mi viene più facile scrivere in siciliano. Ecco, così, praticamente. Proprio inesce così. Sta cosa, no? Così. E per passione intendo anche la rabbia, attento, perché per me la rabbia è una componente estremamente vitale della mia vita, no? La sto trasformando in positività, la voglio riprendere, non la voglio fare scappare via né dalla mia vita né nel mio modo di sentire. Per me la rabbia è importantissima, mi fa sentire viva. Chiaramente adesso qualche volta nelle poesie viene fuori forse in una forma un pochino magari più soft, però ecco, in siciliano è più facile che io mi esprima quando sono appassionata, mentre se quando sono addolorata, questo succede soprattutto negli amori, mi è capitato appunto di scrivere di più in italiano. Sarà forse perché amo di più essere passionale e poco innamorata? Chissà. Volevo chiedere quanto, se abbiamo ancora un minuto. Sì, giusto un minuto, perché siamo a 21:58, quindi sì. Un minuto, va bene. No, un minuto, volevo intanto dire che secondo me è importante dirlo, che le tue poesie sono inserite in un'antologia che si chiama, sì, La voce del vento, A voce dalla terra, se non sbaglio, che è stata curata da Maria Turdo. Sì, sì, Mara Turdo, sì, che è una poesia che raccoglie molte voci di poeti e poete, sì, contemporanei. Siamo 10 siciliani in tutto, contemporanei. 5 siciliani. Tu hai rapporto con loro, cioè esce fuori, c'è qualche nota comune tra voi che avete partecipato a questa antologia, secondo te? Cioè ti senti di far parte di una poesia siciliana, no, contemporanea? No, assolutamente no. Ti dico di no nel senso che la poesia che mi ha accompagnato in questa antologia, da cui siamo stati sponsorizzati dal Comune di Monreale, che devo dire ha avuto un successo enorme, raccoglieva 5 brani in vernacolo e 5 in italiano. L'unica cosa che mi accomuna è affettuosamente l'aver partecipato a questa cosa, ma io mi sento estranizzata rispetto a questo discorso. Io non mi sento dentro un circuito di divulgazione di quello che sono o il modo di sentire. Tant'è vero che in tutti questi anni io ho sempre scritto, ma è la prima volta che ho deciso di far pubblicare delle cose mie e partecipare poi a una cosa anche come questa così importante, perché in realtà ne sono butta questa cosa, l'ho sempre considerata talmente viscerale, talmente mia da non trovare una connotazione anche nel modo di prosa del vernacolo che ho trovato per esempio lì con gli altri colleghi, diciamo, poeti di Monreale. No. Bene, io vi ringrazio. Ok, noi ringraziamo te. Purtroppo io andrei avanti a oltranza, ma qui sono già le 22 e a questo punto io ringrazio Sabina di essere stata con noi. Ringraziamo Monica di aver partecipato e a questo punto, visto che abbiamo parlato di amore, di Sicilia, quale canzone migliore di Rosa Balestreri se non Lo Prima Mori? E con questa canzone il CLR vi saluta. Grazie anche a Stefania. Grazie a tutte. Buona serata, grazie. Ciao a tutte. Ciao a tutte, buonasera. Ciao. La morte e no che sto dolore, ai ai ai ai, maru, c'è se lo vagori, l'amore mio setto, ai ai ai ai, maru, c'è se lo vagori, l'amore mio setto. Lo cuore mi scricchia, pica. Ai ai ai ai, maru, c'è se lo vagori, l'amore mio sento. Ai ai ai ai, maru, c'è se lo vagori, l'amore mio sento. Che fiosa che sta ascoltando mia, baci facemo ogni carezza mia, siamo di l'arma mia, l'amore mio sento, baci facemo ogni carezza mia, siamo di l'arma mia, l'amore mio. La la la la la la. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.